as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, oggi ad Il Pane e le Rose, puntata dedicata a un'iniziativa. Lo so, molti di voi si aspettavano una puntata, visto quello che è successo in Italia, sulla manifestazione del 4 e lo sciopero del 3. Chiaramente noi c'eravamo, eravamo lì presenti a Bologna, insomma abbiamo voluto questo sciopero da anni, così come abbiamo partecipato a quello del 22, ci siamo stati il 19, abbiamo promosso appelli, abbiamo manifestato, siamo scesi in piazza, ormai sono ormai tanto tempo che scendiamo in piazza, più di un anno che parliamo di questo sciopero. Chi segue Il Pane e le Rose sa benissimo che un anno fa abbiamo discusso insieme ai compagni di Connessioni Precarie di un libro nella Terza Guerra Mondiale. Questo libro io vi consiglio a tutti, se lo trovate, altrimenti l'11 di ottobre a questa iniziativa al Pratello, Porta Pratello, via Petrarca 58, potete trovare questo libro, chi lo vuole acquistare, è interessante. Già da allora noi discutevamo con i compagni di Connessione Precarie di sciopero generale europeo contro la guerra. Noi parlavamo di guerra in Ucraina, parlavamo di guerra in Palestina, parlavamo di tutte le guerre e del militarismo che avanzava sempre di più e di chi era contro la guerra, ma in realtà si preparava lo stesso a creare una situazione dei paesi, tipo fomentando il nazionalismo e insomma non risolvendo i problemi principali della guerra che ce l'abbiamo fuori e dentro i luoghi di lavoro. Ecco, adesso ci sarà un bellissimo pezzo musicale, perché questo pezzo ha un testo che secondo me è sempre attuale. Il caro Bob purtroppo è sempre attuale. Lui forse sperava che nel 2025 le cose sarebbero cambiate, ma purtroppo la guerra è sempre un problema enorme ed è sempre una questione di imperialismo e di capitalismo. Dopo il pezzo musicale ascolteremo Matteo e Paola di Connessioni Precarie, che abbiamo intervistato al Dumbo il 29 durante l'assemblea dei direttivi e delle varie categorie delle CGIL di Bologna. Io sono venuti, ero lì, ero presente come membro del direttivo regionale della FIOM, ero lì e ci siamo incontrati e li ho intervistati, perché è giusto pubblicizzare questa iniziativa dell'11 ottobre a Porta Pratello, tutta la giornata in cui si parlerà di guerra, militarismo, Terza Guerra Mondiale, si parlerà di come agire e di come combattere chi fa finta di essere contro la guerra, ma in realtà il suo obiettivo è quello di portare i paesi verso il nazionalismo, verso l'oscurantismo, verso la reazione. Ecco, ci sentiamo dopo per le conclusioni. Intanto sentite questo pezzo e ascoltate bene Matteo e Paola, che sono davvero dei compagni competenti, formati, e vi fa capire il livello, il buon livello della discussione che ci sarà l'11 ottobre a Bologna, dove chi vuole potrà incontrarmi, perché chiaramente sarò presente anch'io nel pomeriggio. Salve a tutti! Permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. It's your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. 'Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality, eh, will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. It's a war. Rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War, war in the east, war in the west, war up north, war down south. It's a war. Allora, siamo qui al Dumbo, assemblea delle assemblee dei delegati della CGIL. Siamo con Matteo e Paola, che sono venuti qui a trovarci. Ciao. Ciao. Perché praticamente vogliamo pubblicizzare un'iniziativa che secondo me è molto molto importante, dell'11 ottobre al Pratello. Poi voi ne parlerete meglio. L'invito è a tutti cittadini, lavoratori, studenti, questa iniziativa dell'11 ottobre al Pratello, perché si parlerà di guerra, si parlerà di terza guerra mondiale. Pensare l'Europa oggi, spazi e soggetti delle lotte in tempo di guerra. Ora, a Porta Pratello, organizzata da Reset, la rete dello sciopero sociale, si parlerà di guerra, di militarismo, pensare l'Europa oggi, riarmo di lotte e soggetti. Ma diamo la voce adesso a Matteo e Paolo, raccontateci un po' la vostra organizzazione, di come è nata e tutto il resto. Parti tu. Allora, molto brevemente, Reset nasce a marzo, o meglio nasce da una serie di assemblee che ci sono state dall'inizio dell'anno, dentro un momento molto diverso da quello presente, che è stato sconvolto felicemente dallo sciopero del 22 settembre. Contro il genocidio e contro la guerra, un momento di difficoltà, un momento all'interno del quale ci si è posto il problema di come radicare l'opposizione alla guerra dentro le lotte, lotte di precarie, lotte delle donne e delle persone LGBTQ, lotte dei migranti contro il razzismo, lotte nelle scuole contro il militarismo, nelle fabbriche per il salario. Una prospettiva contro la guerra che riconosca il fatto che la guerra ha effetti anche al di là dei luoghi in cui è combattuta, ricade sulle nostre vite in termini di autoritarismo, militarismo, impoverimento, legittimazione della violenza come quella che vediamo a Gaza. E quello che vogliamo fare, dopo aver fatto una prima grande assemblea a marzo a Roma, è rilanciare la discussione, rilanciarla sul terreno dell'Europa come spazio di lotta. E un'Europa che non è solo quella dei suoi confini, basta pensare a come l'Europa vada fuori dai suoi confini con i patti bilaterali per la gestione dei movimenti dei migranti, contro la libertà dei migranti, ma che riconsideri appunto l'Europa come terreno di lotta, di organizzazione transnazionale contro la guerra. Ci saranno due momenti di discussione specifici, uno sulla formazione, uno sulla riproduzione sociale, e ci sarà una discussione su organizzazione sciopero sociale europeo. La parola d'ordine dello sciopero noi l'abbiamo sempre considerata, dello sciopero sociale, una possibilità di accumulare forza e di farla valere, e ci pare che quella del 22 settembre sia stata l'occasione che ha dimostrato esattamente che lo sciopero è un terreno di organizzazione praticabile, che ci permette di fare sentire una forza contro il genocidio a Gaza, contro la guerra, ma anche per lottare dentro i posti di lavoro, nelle scuole, nelle università, ovunque la guerra stia dispiegando i suoi effetti e mettendo in connessione soggetti diversi che sono in posizioni evidentemente differenti di fronte alla guerra, ma devono poter comunicare insieme. Matteo, sì. Noi ormai è passato un anno di quando ci siamo incontrati, abbiamo fatto una puntata legata anche al fatto che tu mi hai intervistato, io ho intervistato te, ti ricordi? Sì. Stavate per presentare questo libro, Nella Terza Guerra Mondiale, un lessico politico per le lotte del presente, connessioni precarie. E questo libro, l'11 di ottobre si parlerà molto di quello che c'è scritto in questo libro. Sì, il libro ormai è stato pubblicato da diversi mesi. L'idea del libro nasce dall'invasione russa dell'Ucraina e dai problemi politici che quella guerra e poi la guerra a Gaza hanno posto ai movimenti e anche alle organizzazioni dei lavoratori, ai sindacati e all'associazionismo in generale. Nel senso che parliamo di terza guerra mondiale non perché non perché vogliamo descrivere una realtà di guerra che in questo momento dal punto di vista della guerra guerreggiata è focalizzata in determinati luoghi, ma perché riteniamo che in realtà dall'Ucraina alla Palestina c'è stato un cambio radicale dello scenario politico globale. Parliamo quindi di riarmo, parliamo di militarismo, cioè la guerra c'è anche lì dove non è guerreggiata, con conseguenze profonde su come si lavora, su come si sta nelle fabbriche, su come si sta nelle scuole crediamo che sia urgente aprire con questo libro e anche con l'iniziativa di Reset una riflessione che provi a dare un punto di vista operaio, del lavoro, dei migranti, delle donne rispetto a questa guerra, perché quello che abbiamo assistito in questi 2-3 anni è stato spesso purtroppo un insieme di divisioni, di differenze che non hanno consentito una comunicazione tra le lotte dentro i luoghi di lavoro, fuori i luoghi di lavoro, perché la guerra è stata letta secondo categorie, diciamo così, novecentesche, per cui il problema era la possibilità di un ordine globale, quali erano gli stati egemoni, anti-occidentalismo o a favore dell'Occidente, chi si schierava con quello, chi si schierava con l'altro, ma alla fine della fiera quello che risultava erano appunto divisioni insostenibili perché impediscono una comunicazione tra chi subisce la guerra al di là dei fronti della guerra. Certamente c'è una priorità rispetto a chi è sotto le bombe, questo è evidente, ma nello stesso tempo, come dire, l'organizzazione di chi lotta, di chi fa movimento, di chi lavora non può essere, come dire, vincolata e limitata dalle divisioni fra stati, fra dibattiti geopolitici. Bisogna provare a aprire una comunicazione transnazionale tra movimenti e anche trasversale ai sindacati. Pensiamo all'esperienza, per esempio, dei lavoratori portuali di Ravenna, di cui si è molto parlato e sta per uscire nei prossimi giorni un'intervista su connessioni precarie del comitato dei lavoratori del porto di Ravenna, che è molto interessante esattamente per questo che stavo dicendo e in un qualche modo è in linea con quello che abbiamo scritto nel libro e con quello che vogliamo discutere a Reset. E cioè loro si sono posti il problema certamente di bloccare il porto rispetto ai trasporti militari verso Israele, ma se lo sono posti in un modo secondo noi innovativo e che va valorizzato, perché non sono solo portuali, ma si sono posti il problema di coinvolgere di chi è parte di altre categorie di lavoro dentro il porto, facchini e quant'altro, da chi è italiano e chi ha in tasca un permesso di soggiorno, e soprattutto in maniera trasversale ai sindacati, cioè nel fare un comitato di lotta operaio dentro il porto non hanno badato alle tessere. E questo ci sembra molto importante per riuscire, come dire, a rompere i fronti e per riuscire a superare anche le divisioni sindacali e di organizzazioni che ci sono. Questo è la nostra speranza. Paola, prima ne parlavamo, no? Facciamo una riflessione sul fatto che i lavoratori, c'è stata quella piazza del 22, è stata una piazza che tutti hanno detto che è stata una piazza studentesca. Voi lavorate all'università, chiaramente l'avete visto che effettivamente c'erano molti studenti medi, universitari, la cosiddetta società civile, c'erano molti insegnanti. Allora, dobbiamo estendere questa reset, punta a spiegare, cioè a cercare di creare dei coordinamenti delegati di lavoratori, di diffondere in tutti i luoghi di lavoro il fatto che la guerra non è una questione campista cosiddetta, e non è una questione, è una questione di classe che affronta tutti. Sì, questo è l'intento che noi abbiamo anche cercato di sviluppare nel libro, appunto, nella Terza Guerra Mondiale. Cioè, il problema è individuare la prospettiva che ti permette di accumulare una forza, ma anche di costruire una comunicazione politica che sia quella che va oltre le frammentazioni che sono tanto ideologiche, il campismo che hai nominato è una di queste, quanto materiali, perché è evidente che, per fare soltanto un esempio, che è quello di cui parlavamo prima, in molti luoghi in Europa la guerra è stata usata dalle destre per incoraggiare un discorso sulla fine della guerra tutto nazionalista, razzista, patriarcale e così via. Allora, il tentativo che per noi è importante fare è esattamente partire dalla materialità delle condizioni, non per fomentare divisioni nazionaliste basate sull'idea della sovranità degli stati e soprattutto sulla logica amico-nemico, che è quella che si sta riattivando ed è stata attivata per decenni anche dentro i posti di lavoro. Pensiamo soltanto al modo in cui è stata combattuta una guerra contro i migranti, anziché organizzarsi insieme con i migranti contro il razzismo, per come incide sulle condizioni di lavoro di tutte e di tutti, e questo è esattamente quello che dobbiamo provare a fare. La guerra può diventare un terreno di lotta e di organizzazione che tenga conto delle differenze. E le università e le scuole sono luoghi centrali da questo punto di vista, perché comunque gli effetti della guerra sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni di ricerca e sulle condizioni della formazione sono enormi. E i protocolli valditara, il nazionalismo, il patriottismo, il razzismo e il patriarcato, che sono istituzionalizzati come protocolli scolastici, sono in questo momento una faccia della guerra. E il modo in cui la ricerca applicata con funzionalità che sono sempre potenzialmente utilizzabili in guerra, ma anche al di là di questo, con l'idea che l'unica ricerca legittima sia quella che è orientata all'applicazione e al profitto, e sono delle cose che stanno investendo con una rapidità straordinaria l'università, proprio nel momento in cui è completamente definanziata e il lavoro di ricerca è assolutamente precarizzato, quindi diventerà subordinato all'esistenza di fondi privati e quindi alla funzionalità, al profitto. Il problema di come mobilitare all'interno di questi luoghi di lavoro e di formazione, facendo vedere come la guerra li sta mettendo oggettivamente in comunicazione, e abbiamo bisogno di rovesciare questa connessione bellica contro la guerra, diciamo così, questo è quello che ci dobbiamo impegnare a fare. Evidentemente lo sciopero del 22 ci dà una spinta enorme, certo. Nel senso che quello che è successo con quello sciopero è che si è rotto un argine. Se la guerra, lo scriviamo nel libro, se il militarismo è l'ideologia neoliberale in armi, il neoliberalismo ci ha detto non c'è alternativa, e adesso si sta armando questa ideologia, imponendo peraltro la violenza della guerra, l'autoritarismo della guerra come orizzonte che ci impone qualsiasi sacrificio. Lo sciopero del 22 è stato forse il primo momento veramente efficace in cui centinaia di migliaia di lavoratrici, lavoratori, uomini e donne di ogni provenienza, migranti e non, hanno detto: non è vero che dobbiamo accettare qualsiasi cosa. E questo significato politico dello sciopero è quello che l'11 ottobre a Bologna ci interessa tenere aperto. Allora, l'11 ottobre, Matteo, spiega un po' il programma, così. Allora, l'appuntamento è alle 10 a Porta Pratello, dove sarà appunto presentata la giornata. Dopodiché ci sarà una prima sessione mattutina centrata appunto su Pensare l'Europa oggi, riarmo, lotte e soggetti, in cui vogliamo cercare di discutere quelle che sono, diciamo così, le politiche di guerra a livello europeo e dei singoli stati europei, cercando di discutere come queste politiche di guerra siano legate alle politiche industriali, siano legate alle politiche di taglio del welfare state, quindi dei servizi sociali, esattamente per cercare di capire come la guerra impatta sulle condizioni di vita e di lavoro. E ovviamente questo non è soltanto un esercizio per cercare di descrivere la realtà, ma serve per capire quali soggetti, quale lotte si stanno muovendo non solo in Italia ma anche in Europa. Pensiamo alla manifestazione pochi giorni fa, che l'enorme manifestazione che c'è stata a Berlino, ancora più significativa perché in Germania, dove, come dire, prendere posizione per la Palestina spesso significa anche venire arrestati. Il punto è che anche quegli scioperi che ci sono isolati su questioni contrattuali, su questioni di salario in Europa, in Italia, ai confini dell'Europa, hanno un significato contro la guerra, perché sappiamo che le politiche europee e le politiche del capitale, di organizzazione del lavoro e della produzione si stanno riconfigurando in seguito alla guerra. Poi ci sarà la pausa pranzo, nel pomeriggio ci saranno due sessioni parallele, una su militarismo, formazione, università, adesso qui non mi dilungo perché Paola prima ha detto ampiamente cose su questo, e in parallelo a questa una sessione su guerra e riproduzione sociale, quindi in particolare sul lavoro delle donne, sulle lotte femministe di questi anni. Infine ci sarà una terza sessione dalle 17 alle 19, specifica sul problema dell'organizzazione e dello sciopero sociale a livello europeo. E qui di nuovo a noi pare che tra il 19 e il 22 si sia scoperto quello che in questi due anni è stato un po' latente, cioè che c'è un movimento dello sciopero dentro i luoghi di lavoro e anche a livello sociale, nella riproduzione sociale, che dobbiamo in un qualche modo riuscire a valorizzare, a tenere aperto, a sostenere, pensando a quali sono le parole d'ordine, i discorsi, le pratiche di lotta che si possono fare. Quindi questo secondo noi è un appuntamento fondamentale. Ok, vediamo tutti l'11 di ottobre a Porta Pratello, via Petalata 58, dove c'è il Reset che organizza questa bellissima iniziativa. Grazie a voi. Grazie ciao. A te, ciao a tutti. Ciao Gianplasio, grazie, ciao. We don't need no Allora, abbiamo ascoltato, prima del pezzo musicale, l'intervista fatta a Matteo e Paolo di Connessioni Precarie, che ci hanno parlato della discussione che verrà fatta l'11 di ottobre a Porta Pratello, via Petalata 58, da Reset Against the War. Questa iniziativa tutta la giornata, dalle 10 fino alle 7, in cui si discuterà guerra e militarismo e di come combattere anche chi dice di essere per la pace, ma in realtà vuole spostare la società a destra e utilizza la questione della guerra per fare i propri interessi e comunque non risolvere i problemi che ci sono nei luoghi di lavoro, nella società non combatte realmente il militarismo avanzante in tutti questi, in Europa soprattutto, che sta accadendo. Ora, abbiamo ascoltato i compagni che chiaramente stanno chiedendo e promuovendo, oltre lo sciopero, quello che alla fine poi è arrivato, uno sciopero per la Palestina, ma chiaramente noi ci identifichiamo tutti quanti i compagni che sono per lo sciopero contro la guerra, nello sciopero contro la Palestina, ma per noi quello sciopero è stato contro tutte le guerre, chiaramente. Guardate, io prendo ad esempio una cosa che ha detto Greta Thunberg, che non è proprio il mio punto di riferimento politico, però chiaramente lei ha detto una cosa che io penso corretta e giusta, nel senso che chi scende in piazza, anche la Sumud Flottiglia, ha tre questioni che sono, secondo molti al mondo, chi sta scendendo in piazza, le tre questioni fondamentali, che sono l'ambiente, la guerra, sia la pace, risolvere i conflitti, e la terza questione è la questione sociale. Anche Greta Thunberg, che non è che sia una marxista rivoluzionaria, chiaramente sa che sono tre questioni legate. Ora, e noi pensiamo che questo sia completamente vero, e la soluzione certamente non ce la può dare Orban o il partito ANO di Repubblica Ceca, che adesso pare che sia un altro partito che è spuntato contro la guerra, che in realtà il loro obiettivo è quello di strumentalizzare la rabbia che i lavoratori hanno contro la guerra, e si rendono conto di quanto sia problematica la guerra per chi lavora, il luogo di lavoro, per fare i propri interessi reazionari. Serve uno sciopero europeo in questo momento. L'Europa è un paese che si sta militarizzando e sta creando una militarizzazione che parte anche dai luoghi, delle fabbriche, dei conflitti di fabbrica, di quello che accade, della repressione dei conflitti, anche sui luoghi di lavoro, che parte anche dal razzismo che è funzionale al capitalismo. Serve un'alternativa al pacifismo militarista, nazionalista, reazionario dell'AfD, come in Germania o altri, come Orban e altri. Serve un'alternativa di sinistra a una risposta a questo che sta accadendo. Io penso che l'11 ottobre si discuterà di questo, tutti insieme, ci saranno tante persone che interverranno, vari sindacati, gente che rappresenterà i movimenti. Non penso ci sarà nessun partito, perché oggi i partiti, sinceramente, li vedo tutti un po' allineati. Chi si oppone veramente a quello che sta accadendo, il Parlamento forse non c'è. Qualcosa fuori dal Parlamento certo c'è, l'abbiamo visto nelle piazze in questi giorni. E spero che queste iniziative servano per cercare di cambiare le idee che circolano anche nei luoghi di lavoro, che spesso non sono così progressiste come noi ci immaginiamo, purtroppo. Ecco. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo l'11 ottobre. Porta Patello, via Petrarca 58, mi raccomando, non mancate. Il pomeriggio ci sarò anch'io, chi segue il Pane Rose e vuole incontrarmi, parlare con me, discutere, dirmi anche quello che non gli piace, quello che noi discutiamo, non è un problema. Ci vediamo l'11 ottobre. Salve a tutti.